Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo a una via, delle labbra che scorderò. Mentre il vento soffierà via, anche l'ultimo fallò, potrei dirti un'altra bugia. Potrei dirti qualcosa di me, ma non so niente di te, ma non fa niente anche se, in strada si parla di me, il resto lo tengo per te, Mi calma se questo rodeo, scusami, penserò al karma dai, fa caldo e ti cala il pareo. E quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque andrai altrove no. Quando di riprovare, fare lo vuoi fare, dai che ci vuoi fare, me lo ricordo che ti va di giocare. Male non fa male no, come fare gol, per amare non mi amare no, non ti chiamerò, per sperare puoi sperare come un casino però. E quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque andrai altrove no. Quando balli il tuo corpo si muove col mio e questa notte che mi tenta, da bocca a bocca la tua verità la so.